quale sguardo sdegnosetto lo accende minaccioso, guardando velenoso la ferirmi il petto, bellezze un dio tutt'arno e sul riviso, piagatemi cor sguardo, sanatemi cor riso, armatevi pupille, l'asprissimo, asprissimo rigore, versatemi su cuore ogni ebbi di faville, ma il labbro non si attardo, ravvivano ucciso, feriscami quel sguardo, ma sarebbe gli occhi, allarmi, allarmi, allarmi, allarmi, io vi preparo il senno, gioite, gioite, gioite, ci pregarmi, infin che ho vinto.